Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, oggi parliamo del nostro paese, dell'Italia, delle sue bellezze artistiche e non soltanto, e ne parliamo attraverso i commenti di una figura che ormai è molto nota anche al largo pubblico, e cioè Davide Rampello, che conduce su Striscia la Notizia una fortunata rubrica, la scoperta di luoghi d'Italia sconosciuti e di miniere del patrimonio alimentare, oltre che artistico, magari dimenticato. Davide Rampello, un intellettuale, è stato presidente della Triennale di Milano, grande esperto di cultura materiale, ha curato la realizzazione del padiglione zero dell'Expo a Milano, e il suo libro si intitola Paesi, paesaggi, è scritto con Luca Masia, è pubblicato da Schirà, 230 pagine, 18 euro. Questo libro è una specie di atlante, soprattutto dedicato alle regioni settentrionali, con puntate nelle Marche, in Sicilia e in Puglia, e vi troviamo dei percorsi che, riprendendo appunto le puntate delle sue trasmissioni, ci fanno scoprire luoghi, attività, personaggi legati alla produzione alimentare, con indicazioni per ciascuna tappa su cosa vedere, su cosa gustare, su cosa fare e anche su cosa sentire, per esempio l'odore del bosco o il profumo del vino, insomma un'Italia da scoprire, come molti di voi avranno fatto grazie alle apparizioni televisive di Rampello, che adesso ci spiega che cosa ha scoperto in questo suo lungo viaggio in Italia. Buonasera Davide Rampello. Buonasera a voi. Allora Davide Rampello, questo suo libro si intitola Paesi e paesaggi, quindi si parla di ambiente, di uomo, di natura e di lavoro. Qual è la scoperta più entusiasmante che ha avuto in questo suo viaggio? Ma è la scoperta del senso che hanno tutti questi personaggi, un grandissimo amore per il loro lavoro, una grande fatica, nonostante la fatica, la volontà di perseverare. Perciò questa è stata la vera scoperta, uomini che sono, potrebbero essere dei nuovi eroi dell'immaginario nostro. Una scoperta quindi legata più agli uomini che ai luoghi. I luoghi sono tutti straordinari, ma proprio i luoghi sono, come posso dire, l'uomo è l'espressione del luogo e il luogo è l'espressione dell'uomo. Sento veramente un'armonia fortissima, sia per chi fa il pane, per chi coltiva, per chi alleva le specie particolari di come questo della cabannina, per chi fa i formaggi, per chi fa, insomma, questo, ma è la tenacia formidabile e l'amore formidabile che hanno per il lavoro. E poi ci sono anche tante sorprese, per esempio quella di scoprire che lo zafferano si produce a livelli eccelsi anche in Lombardia. Esattamente, questa è stata una cosa a Pozzolengo, c'è questo coltivatore, c'erano questi prati bellissimi e tra l'altro finita la ripresa ci hanno fatto il risotto e devo dire straordinario, profumatissimo. Come un'altra, una cosa inedita che non c'è nel libro, ma che per dire l'altro giorno mi è capitato a Gemona del Friuli, a Tolmezzo, coltivano circa un centinaio di peperoncini da tutto il mondo, con un successo incredibile. Perché? Perché c'è l'escursione termica e l'escursione termica favorisce evidentemente l'eccellenza dei profumi e dei sapori, come per l'uva. Questa Italia che lei descrive è un'Italia residuale o rappresenta in qualche misura anche il futuro del nostro paese? A mio avviso queste devono essere veramente le reti messe assieme del futuro del paese, perché qui c'è la testimonianza c'è veramente la narrazione delle differenze, perciò la testimonianza della qualità dell'eccellenza italiana. Se noi vogliamo avere un'industria, perché dovremmo averla, di eccellenza, dobbiamo avere come paragone, come metro, i prodotti di questi formidabili uomini. Secondo lei c'è abbastanza attenzione verso questo patrimonio? Come si può salvaguardarlo? L'attenzione non è mai sufficiente, non c'è, qui bisogna veramente, come posso dire, fare delle iniziative ad hoc, fare delle io ho proposto veramente ad esempio di creare un premio, una riconoscimento ufficiale a questi che chiamo i beni culturali viventi. Questa cosa va veramente preservata, come va aiutata, ma non in maniera museale, va aiutata, va aiutata l'economia, il lavoro, perché dentro a tutto questo non c'è solamente il prodotto, c'è il mantenimento per esempio del paesaggio. Il paesaggio, a parte il paesaggio naturale, ma il paesaggio antropizzato è frutto del lavoro di tutti questi. E se il mantenimento di un bosco, la manifattura di una vigna, il mantenimento di un alpeggio e il lavoro di e la sapienza e la conoscenza di arti e mestieri, appunto. Qual è stata la reazione del pubblico a questa trasmissione televisiva, a queste puntate televisive? Beh, devo dire che siamo soddisfattissimi, Ricci con me, perché è, diciamo, tra le rubriche più seguite. Di solito quando iniziamo si alza l'audience, c'è grandissima, veramente, e poi sono per la strada, sono riconosciuto, e tutti dicono: ah, mi raccomando, venga qui non come turista, come ospite. Per cui queste cose, queste frasi che ripeto come un tormentone, qui mi sento come a casa, eccetera, sono cose che sono recepite, il valore simbolico con cui le ho pensate. Le chiedono anche della sedia di De Lucchi? Sì, no, la sedia non è di De Lucchi, la sedia è di scenografia, non è di De Lucchi. Ah. Era di Iacchetti una, ma abbiamo sostituito questo. Certo che la chiedono, sono tutti molto curiosi, anzi mi chiedono di sedersi quando la vedono, perché però questo è molto importante, ossia l'idea di percorrere l'Italia a piedi e di far diventare luogo, perciò casa, qualsiasi luogo, purché abbia appunto il valore che voglio mettere in scena. E secondo lei, in questo interesse, c'è più la passione per la scoperta dell'Italia o interesse per il cibo, la filiera dell'alimentazione, eccetera? Secondo me queste cose ci sono, ma soprattutto, diciamo, l'italiano ha proprio in dentro, come memoria, come DNA, il senso di queste cose. Purtroppo, se non gli vengono ricordate, se non gli vengono rappresentate, se non gli vengono raccontate proprio la creatività, la progettualità, i saperi, allora se li dimentica. Allora, vedendo questo, è come se fosse un ritornare a ricordi, a necessità, perché non sono solamente ricordi nostalgici, sono ricordi che sono poi delle potentissime e fortissime necessità di vita. Ho ricordato poco fa che lei è stato responsabile del padiglione zero, insomma il curatore del padiglione zero all'Expo. Qual è il nesso fra questo lavoro che lei ha fatto in televisione e il lavoro che ha fatto all'Expo? Beh, molto affine, perché padiglione zero di fatto racconta, mette in scena, come dico io, il rapporto tra l'uomo e il cibo, e di fatto non è altro che la storia dell'uomo. L'uomo che deve, diciamo, procurarsi gli alimenti, crea le quattro arti fondamentali, sono la caccia, la pesca, l'allevamento e l'agricoltura. Attraverso queste arti l'uomo scopre la natura, scopre le leggi della natura, scopre la fisica, la dimensura, e evidentemente scopre se stesso, nel senso che crea se stesso. E difatti la metafora dell'alimento è una metafora che poi va e invade anche la sfera intellettuale e spirituale. Coltivare, colere, abitare, incolere. Per cui, come posso dire, c'è una grandissima, è come se io andassi per paesi e paesaggi, andassi a verificare tutta una serie di testimonianze che di fatto sono rappresentate nel padiglione zero. E questi rumori di fondo ricordano che lei sta facendo un viaggio in auto. Ci può consigliare un itinerario d'autunno? L'autunno è così bello, io per me è la mia stagione preferita, è la stagione dove si esaltano i sapori, dove tutto diventa più netto, no, dal punto di vista dei sapori, e poi comincia la grande cucina, quella intensa. Io invito, come posso dire, andare per monti, andare per campagne, andare per valli e affidarsi veramente, intanto comprare il libro, perché il libro è un vademecum, secondo me, molto utile. Molto utile, talmente utile a mio avviso che se lei ha avuto modo di sfogliarlo, appunto, avrà visto che in ogni capitolo c'è le opportunità che sì, quel territorio può rappresentare. Perciò un invito anche ai giovani. Ecco, questo è importantissimo. Grazie a Davide Rampello, autore di Paesi Paesaggi. Buona serata. Grazie a voi. A proposito di Expo, vi presento un libro che parla della precedente esposizione universale che si tenne a Milano esattamente nel 1906. Questo libro di cui vi parlo è abbastanza singolare perché ricchissimo di immagini e fin qua nulla di strano, anche se ci fa vedere appunto un'esposizione universale di cui si è abbastanza persa la memoria, perché come sapete delle esposizioni universali poi rimangono poche tracce fisiche. Ma queste immagini hanno la caratteristica di essere delle immagini tridimensionali e quindi danno la possibilità, grazie agli occhialini che vengono anche forniti nel libro, di avere quasi l'impressione di essere presenti, di essere proprio in mezzo alla Milano di quell'epoca e ai padiglioni dell'Expo. Il libro è di Claudio Centimeri, che è regista appassionato di fotografia stereoscopica, appunto, si intitola Expo 1906 in 3D e pubblicato da Cisalpino, 160 pagine, 28 euro. Le fotografie tridimensionali sono una tecnica affermata, risalgono infatti agli inizi dell'Ottocento e furono particolarmente applicate proprio in occasione dell'Expo, la cui guida ufficiale ne ospitava un certo numero. Sono immagini dunque sulla Milano di allora, soprattutto della Milano Liberty che nasceva e si sviluppava, sull'apertura del traforo del Sempione che fu l'occasione per l'Expo e sui lavori per realizzare quella grande opera e naturalmente sui padiglioni dell'Esposizione Universale, che fu realizzata in quella che oggi è il Parco Sempione e padiglioni dei quali appunto rimane solo una testimonianza, l'attuale Acquario Civico. E tra l'altro quell'Expo, ricordiamo, fu particolarmente attenta proprio alle innovazioni tecnologiche, al progresso scientifico e alle prime forme del welfare, come dimostrano i padiglioni di cui troviamo qui le immagini, naturalmente dedicati a temi come la previdenza, l'igiene e il lavoro. Ci interrompiamo per un attimo, ci risentiamo fra pochi minuti. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su Radio24.it. Radio 24, la passione si sente, anche in viaggio. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Vi parlo adesso di due libri che hanno a che fare con i libri. Il primo è un romanzo di uno scrittore di culto, Mordecai Richler, lo scrittore canadese, assurto a fama mondiale per il libro La versione di Barney. Adesso il suo editore italiano, che è Adelphi, propone un romanzo del 1968, La storia di Mortimer Griffin, 244 pagine, 18 euro, tradotto da Giovanni Ferrara degli Uberti. Qui il protagonista è un manager di un'importante casa editrice di Londra che viene acquisito improvvisamente da uno squalo dell'editoria e del mondo della produzione hollywoodiana, un signore stranissimo, ricchissimo, divorato dall'ambizione di diventare immortale grazie a sempre più complicati interventi chirurgici ai quali si sottopone. Mortimer, il protagonista, appunto, è brillante, capace, ma la vita gli riserva anche delle delusioni, innanzitutto perché la moglie lo tradisce con un amico o presunto tale, assai poco raccomandabile, e poi perché viene perseguitato lo stesso Mortimer da una specie di giornalista che lo accusa di non voler confessare di essere ebreo, di vergognarsi di essere ebreo. Vi dicevo che questo è un libro del 68 e qui fa capolino già il grande disastro che sarebbe seguito negli anni successivi, ossia il consolidamento del conformismo e della correttezza politica che poi appunto Richler avrebbe messo alla berlina nel suo capolavoro. E già allora, già in quegli anni a Londra, questi vizi cominciano ad attecchire, ad allignare, e per esempio il figlio del protagonista, che ha 8 anni, frequenta una scuola che come saggio scolastico lo costringe a partecipare alla messa in scena di un'opera del Marchese de Sade con maestre che inneggiano alla libertà sessuale anche per bambini così piccoli. Mortimer cerca di resistere anche sul lavoro, mette in guardia contro la tirannia della minoranza, così la chiama nel libro. Deve fare i conti con il complottismo che nega qualunque possibilità di compiere un'azione buona. Insomma, un romanzo che non mancherà di rafforzare la passione per Richler e per molti suoi temi. L'altro libro non è un romanzo, ma è sempre un libro sul libro e in qualche misura si può leggere anche come un romanzo, tanto è complessa la vicenda. È il libro che riguarda le origini del famosissimo dottor Zhivago. Si intitola Zhivago nella tempesta, le avventure editoriali del capolavoro di Pasternak. L'autore è Paolo Mancosu, che è un professore di filosofia a Berkeley è pubblicato da Feltrinelli, che fu lo stesso editore naturalmente che pubblicò il Dottor Givago, 496 pagine, 29 euro, ed è tradotto da Francesco Peri. Feltrinelli quindi pubblicò prima al mondo il capolavoro di Pasternak nel 1957, un libro che fu una sorpresa, fu un successo clamoroso in tutto il mondo e addirittura valse a Pasternak il premio Nobel, che lo scrittore fu poi costretto a rifiutare per le pressioni alle quali fu sottoposto dalle autorità sovietiche, che odiavano quel libro, naturalmente non avrebbero potuto tollerare un riconoscimento internazionale così importante. E la storia della pubblicazione del libro ebbe, come vi dicevo, dei tratti quasi romanzeschi per l'ostilità appunto assoluta delle autorità sovietiche sulla diffusione di un'opera che veniva definita e giudicata contraria all'ortodossia dell'epoca. Il partito di allora, il PQS, fece anche intervenire il Partito Comunista Italiano, al quale all'inizio lo stesso Feltrinelli era vicino. Ma la situazione internazionale di quegli anni, in particolare i fatti del 56 di Polonia ed Ungheria, indussero anche Feltrinelli a prendere le distanze dalla reazione sovietica, che come ricorderete fu brutale. Quando il libro uscì, anche il Partito Comunista quindi prese le distanze, e dopo un breve dibattito su come l'Unità avrebbe dovuto trattare il libro, le recensioni appunto del giornale si decidevano nel partito, e il partito mandò una esponente che sarebbe diventata famosa, Rossana Rossanda, a trattare con Feltrinelli prima di decidere di espellerlo addirittura dal partito. E tra l'altro la Rossanda minimizzò il successo del libro, che invece fu immediato e planetario. Vi segnalo adesso un paio di libri su alcuni punti di attualità. Innanzitutto ricordiamo la giornata di oggi, che è dedicata a San Francesco, e allora vi segnalo un libro di un grande storico italiano, Franco Cardini, che ricollega il santo con il contemporaneo più illustre che ne porta il nome, e cioè il Papa. Il libro di Franco Cardini si intitola Un uomo di nome Francesco, la proposta cristiana del frate di Assisi e la risposta rivoluzionaria del Papa che viene dalla fine del mondo. È pubblicato da Mondadori, 194 pagine, 20 euro, come avrete capito dal sottotitolo. Questa non è una vita di San Francesco, ma piuttosto un saggio su Bergoglio, la cui imprevedibile decisione di assumere appunto il nome di Francesco è l'indice forse più clamoroso della novità che questo Papa ha rappresentato, una novità davvero sostanziale e profonda, e che si manifesta in tanti episodi di straordinario impatto mediatico, per esempio la prima visita che fece fuori da Roma, cioè a Lampedusa. Che profilo esce da questo libro di Francesco, cioè del Papa? Sentiamo queste righe di Cardini. Papa Bergoglio non è né un conservatore né un rivoluzionario. Non cede un millimetro sulla dottrina della Chiesa e in particolare sulla gerarchia e sul magistero ecclesiastici. Ma chiamato a governare la Chiesa all'inizio del XXI secolo, sa di non poter fare politica dello struzzo nei confronti dei problemi del nostro tempo, tra i quali ha un ruolo tutto speciale la crisi della famiglia. E nell'affrontarli ha detto e ripetuto che il primo posto va attribuito alla carità, all'ascolto, a quello stesso dialogo a proposito del quale tanti equivoci sono nati sia tra i cattolici sia tra gli altri. Il libro non è un libro agiografico del nostro Francesco, il cui pontificato, le cui scelte sono collocate all'interno della stessa Chiesa, rispetto alla quale il Papa compie dei gesti di inaudita rottura. Per esempio, Cardini nota come il Vescovo di Roma si sia spogliato delle ultime vestigia della porpora e dell'oro imperiali che i suoi predecessori avevano sottratto agli augusti cristiani per adornarsene, che senza paura, con semplicità, guida la Chiesa al disincanto rispetto a se stessa e al mondo. E naturalmente il richiamo a San Francesco si completa con il riferimento alla recente enciclica di Papa Francesco Laudato Si, che Cardini considera come un raggio di sole nella nebbia postmoderna, una rosa sbocciata nel deserto dell'egoismo e dell'ipocrisia nel quale ci sembra ormai di esserci definitivamente sperduti quando leggiamo dei buoni cristiani che desertificano e inquinano il mondo per fame e sete di profitto. Una famosa biografia di Francesco del Santo, è una biografia quasi a lui contemporanea, è La leggenda dei tre compagni, che viene riproposta dalle edizioni Paoline a cura di Felicia Crocca, 224 pagine, 28 euro. Questo è un testo famoso, a lungo discusso, che risale all'incirca al 1246, che fu scritta ufficialmente da tre compagni di Francesco, cioè Leone, Rufino e Angelo, come accompagnamento a una lettera scritta al ministro generale. In realtà l'autore dell'opera non è noto, anche se dobbiamo sospettare che gli abbia conosciuto bene Francesco e l'ambiente nel quale la sua attività si svolse. È un'opera importante questa, perché ripropone dei fatti determinanti della vita di Francesco, soprattutto dei primi anni, compresi quelli anteriori alla conversione, ed è anche un'opera breve di questo libro, infatti, che vi ho detto a 224 pagine, occupa soltanto le ultime 80 pagine, mentre quelle iniziali sono dedicate a una lunga introduzione critica del testo. Vorrei poi ricordare che è scomparso da pochi giorni Giorgio Israel, che è stato un matematico, un epistemologo, di cui esce l'ultimo libro, scritto con Cesare Cornoldi per Il Mulino. Si intitola Abolire la scuola media, 114 pagine, 11 euro. Questo libro appartiene alla serie Bianconero, nella quale vari temi sono affrontati da due punti di vista radicalmente opposti. Qui Israel duellava appunto con Cornoldi, che è uno psicologo, sul tema della scuola media, di cui gli autori riconoscono entrambi l'importanza, divergendo però sul destino della scuola. Cornoldi infatti invoca un cambiamento radicale alla luce di una crisi che assume sette manifestazioni, sette espressioni, a partire dal calo del rendimento drammatico degli studenti italiani. E quindi Cornoldi propone puramente e semplicemente di abolire la scuola media, allungando la scuola primaria e assicurando altre riforme, ridimensionando i programmi, riducendo i docenti, diminuendo i libri di testo. Israele invece nelle sue pagine non condivide una proposta così dirompente, proprio perché rovescia la prospettiva del suo interlocutore. Per lui infatti l'autentico buco nero della scuola italiana non è la scuola media, bensì la scuola elementare, così diceva. La scuola media, secondo Israele, mantiene un altro merito, quello di essere ancora profondamente legata a una visione di carattere disciplinare. E quindi Israele si dimostra molto preoccupato del modello formativo che si sta realizzando nel nostro paese, un modello formativo sempre più burocratizzato. Scrive Israel: si vuol distruggere un'istruzione in cui si perde tempo dietro la cultura, le conoscenze e le discipline, a favore di una scuola totalmente funzionalizzata alla formazione di forza lavoro, ovvero alla costruzione delle cosiddette competenze. E così, concludeva Israel, si ritorna al Medioevo. E a questo punto il confettino. La scuola media, ma non quella italiana, è l'ambiente di una fortunatissima serie giunta adesso al secondo appuntamento. La serie è di quella che si intitola Scuola Media, appunto. L'autore è James Patterson, che è uno degli autori più venduti e più prolifici al mondo. Scrive circa in media un libro al mese. Questo libro l'ha scritto con Chris Grabenstein e si intitola Fantastico Superman. È pubblicato da Salani, 260 pagine, 12 euro. Ed è la seconda puntata, appunto, di questa serie, che ha avuto uno straordinario successo negli Stati Uniti, ambientato a Hills Village, in cui troviamo il protagonista, un ragazzo costretto su una sedia a rotelle che coltiva il sogno di vincere il concorso per il miglior comico del mondo. Ultimi arrivi. Vi segnalo innanzitutto il romanzo di un giovane scrittore inglese tra i più promettenti della sua generazione, si chiama Adam Thirlwell, si intitola il libro Tenero e Violento, pubblicato da Guanda, 362 pagine, 18,50 euro, tradotto da Riccardo Cravero. Qui abbiamo protagonista un giovane in cerca di un suo equilibrio, coinvolto in una storia scandita da paragrafi cui titoli danno come una sintesi della trama del libro. Poi vi propongo due libri di Rizzoli che hanno come protagonista, anzi come autori, due cantanti italiani. La prima è Rita Pavone, che con Emilio Targia ha pubblicato Tutti pazzi per Rita, La mia vita, i miei sogni e la mia voglia di cantare, 342 pagine, 18,50 euro, un libro che ripercorre la carriera giunta ai 70 anni della protagonista. L'altro cantante è Neck, Al secolo Filippo Neviani, che scrive Una lettera a mia figlia sull'amore, 192 pagine, 17 euro, in cui spiega Beatrice, la bimba che ha avuto 5 anni fa, il senso dell'essere padri, dell'essere compagni, ma anche di trasmettere emozioni. Lo fa ripercorrendo anche egli la propria vita e le proprie esperienze.